Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Scusate la voce, ero convinta di aver scampato i malanni di stagione e invece ho preso anch'io un potente raffreddore, ma tant'è. Cominciamo come sempre da Internazionale, il settimanale che è in edicola da ieri col nuovo numero, e un articolo molto interessante parlando di paesi dell'Unione Europea di cui forse parliamo magari per i motivi sbagliati e ci dimentichiamo di festeggiare alcuni loro anniversari. Ecco, un articolo che è apparso su Dilemma Vece, un giornale romeno, si intitola I 10 anni europei di Romania e Bulgaria. L'ingresso in Europa di Bucarest e Sofia, rispettivamente le due capitali, è stato spesso criticato. Tuttavia, sotto il profilo sociale, economico e della democrazia, i due paesi oggi sono i più avanzati della regione. È interessante questo articolo perché sapete che si parla di un ulteriore allargamento dell'Unione Europea e molti sarebbero contrari. Forse questo esempio di Romania e Bulgaria, dove sicuramente le economie non bastano 10 anni per cambiare o stravolgere o cambiare in positivo le storture di alcuni sistemi economici, però se c'è un progresso comunque sociale e democratico, come spiega questo articolo, direi che è comunque un buon obiettivo. Vi leggo comunque le conclusioni, che sono molto, molto, molto pratiche, molto lucide. L'adesione è stata un successo? Non del tutto, se si pensa alle aspettative dei più poveri e quello che immaginavano i burocrati europei. Ma le cose cambiano se osservate nel contesto regionale. La Romania e la Bulgaria sono state pesantemente colpite dalla crisi e per di più in una cornice di grandi tensioni, se si pensa a quello che è successo in Turchia, Ucraina e Medio Oriente. Eppure sono rimaste democrazie liberali, con società tra le più euro-ottimiste dell'Unione Europea. Sotto il profilo economico, sociale e dello sviluppo della democrazia, la Romania e la Bulgaria si sono nettamente distanziate dagli stati dell'area che non hanno aderito all'Unione. Da questo punto di vista l'adesione è stata un successo di cui Bruxelles può andare fiera. E sempre da Internazionale, un altro interessante articolo riguarda noi italiani, le banche italiane soprattutto, e però sapete che molte banche italiane in realtà, oltre a essere una colonna importante del sistema economico italiano, che è fatto, lo sapete, per la stragrande maggioranza di piccole e medie imprese, posseggono anche per le banche italiane e addirittura le grandi assicurazioni italiane, come abbiamo sentito in questi giorni parlando di Generali, molti titoli del debito pubblico. Quindi se gli istituti di credito hanno un problema e vanno risanati, è una cosa di cui si deve occupare l'Italia ma anche l'Unione Europea. Questo articolo pubblicato da Open Democracy, un sito del Regno Unito, ripercorre un po', per chi appunto fuori dall'Italia tutti questi problemi non li conoscesse, e spiega quali sono le criticità. Vi leggo l'ultima parte. Per migliorare le prospettive dell'Italia e quindi dell'Europa bisognerà quindi risanare gli istituti di credito, ma anche ripristinare la fiducia nel sistema bancario, venuta meno negli ultimi anni in Italia e non solo. Per la mentalità dei cittadini sarà una vera rivoluzione culturale che non si esaurirà sistemando i conti e migliorando la gestione delle banche. Per ottenere dei risultati servirà tempo. Le banche dovranno rafforzare il loro ruolo nel proporre uno sviluppo economico sostenibile e dovranno imparare a scegliere manager migliori per recuperare credibilità. E naturalmente tutto quello che ci auguriamo anche per quanto riguarda la vicenda più grave, più grande che si sta affrontando in questo momento, che è quella del Monte dei Paschi di Siena. Banca, ricordiamolo, fondata nel 1472, il che ne fa la più antica banca al mondo. Un altro articolo molto interessante è apparso sulla Tageszeitung, un quotidiano tedesco, e si intitola L'arte degli accordi scorretti, e parla di come l'Unione Europea, che sta negoziando tantissimi trattati, oltre a quello che alcuni dicono purtroppo, altri dicono tutto sommato per fortuna, Trump, il neo presidente americano, ha affossato, cioè il trattato transatlantico tra Unione Europea Europea e Stati Uniti, ma ce ne sono tanti altri sul tavolo, e per esempio con alcuni paesi dell'Africa orientale. Secondo però questa inchiesta di Tageszeitung, a volte tra le carte che l'Unione Europea mette sul tavolo ci sono anche delle carte che assomigliano più a ricatti, per esempio con la minaccia di tagliare i fondi per lo sviluppo a chi non vuole firmare questi accordi. Per esempio c'è un caso particolare di cui parla Tageszeitung, che è il Kenya. All'inizio anche il Kenya si era opposto a questo accordo che si sta negoziando, ma nel 2014 Bruxelles ha introdotto dei dazi doganali su molte merci keniane e da allora il paese ha cambiato idea. Nel 2016 l'Unione Europea ha stipulato accordi commerciali con 5 dei 15 stati della comunità di sviluppo dell'Africa meridionale, mentre con il Sudafrica ha firmato un accordo a parte. Intanto è stato aperto un negoziato anche con la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale. E torniamo però adesso a parlare di rifugiati, dell'emergenza immigrazione. C'è chi dice che emergenza è, devo aggiungere, che invece considerano che non sia un'emergenza. Adesso naturalmente in Italia siamo stati giustamente assorbiti dalle nostre vicende interne tragiche, il terremoto, i disagi che continuano nel centro Italia, naturalmente la tragedia dell'hotel di Rigopiano travolto da una valanga. Però questo freddo, queste condizioni invernali, vi lascio immaginare anche che effetti possono avere sui rifugiati. Una situazione particolarmente grave è quella dei rifugiati siriani in Turchia, di cui l'Unione Europea, naturalmente la Turchia stessa, così non si occupa. Questo articolo lo trovate su voxeurope.eu e a cura dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Secondo le stime, un minore siriano su 10 dei rifugiati in Turchia, che poi sapete moltissimi rifugiati siriani cercano anche di andare oltre la Turchia, quindi di venire nei nostri paesi, quindi dicevamo, secondo le stime, un minore siriano su 10 lavora per mantenere la propria famiglia, una situazione che rischia di cancellare un'intera generazione. Ci sono dei dati forniti dall'UNICEF, forniti dalle organizzazioni non governative, e fanno parte un po' di quella consapevolezza della sostenibilità sociale anche di alcune aziende, di alcune scelte che noi facciamo, perché si spiega per esempio che a Istanbul molte aziende tessili impiegano bambini siriani. Lo stesso vale per i bar e i ristoranti e anche per il settore agricolo. Sebbene non si conosca il dato preciso riguardo ai lavoratori minorenni, secondo una stima dell'UNICEF si stima che un bambino siriano su 10 vada a lavorare per la famiglia per 6 o anche 7 giorni alla settimana e per più di 8 ore al giorno. Ma passiamo ad un altro argomento, torniamo sull'Italia, perché la Süddeutsche Zeitung ha dedicato un lungo articolo, al nostro premier Paolo Gentiloni, che è il successore di Matteo Renzi, che già aveva suscitato molto interesse da parte della stampa tedesca e non solo, per essere il più giovane leader europeo. Paolo Gentiloni non è il più giovane leader europeo, ma sta raccogliendo altrettanta curiosità, perché comunque un po' forse anche solo per il cambio di stile, però un cambio di stile che comunque appare positivo. Alcuni lo hanno già paragonato un po' a quello stile non stereotipamente da stereotipo italiano, come è quello di Mario Draghi. E quindi scrive la Deutsche Zeitung: Paolo Gentiloni, premier italiano, forse non a termine. A Paolo Gentiloni non darebbe fastidio essere definito persona sobria e gentile, nonostante questi attributi suonino fuori moda in tempi concitati come i nostri. E Gentiloni è persona estremamente sobria e gentile, può risultare persino un po' flemmatico e monotono. Lui rinuncia alla retorica fiorita e si stenta a credere che questo romano di 62 anni, di sangue aristocratico, da giovane aderisse all'estrema sinistra e organizzasse come leader ribelle l'occupazione del suo ginnasio. E tra l'altro la Süddeutsche Zeitung si spinge a ipotizzare che, benché il governo Gentiloni sia nato quasi con l'etichetta governo a termine o governo di transizione, forse Gentiloni ci prenderà gusto e anche, magari a elezioni politiche fatte, potrebbe ricandidarsi ed essere... Non accontentarsi appunto di aver fatto questa esperienza a termine, ma di diventare leader di partito, del suo partito il PD, e magari di restare, così si chiede il quotidiano tedesco, di più sulla scena. A proposito di elezioni politiche, Vi segnalo invece un articolo apparso sulla Welt, che è un altro quotidiano tedesco. In questo caso si occupa di Martin Schulz, che come sapete si è dimesso da presidente del Parlamento europeo per iniziare la sua campagna che lo porterà alle elezioni per diventare cancelliere, la sua grande sfidante, forse una sfida quasi impossibile, è Angela Merkel. Secondo la Welt, Schulz si sta muovendo molto bene. I giornali gli stanno dando molto spazio, sono incuriositi, le sue prime uscite sono interessanti dal punto di vista politico, anche la politica tedesca forse ha bisogno di qualche novità e c'è addirittura un sondaggio, scrive la Welt e poi anche la Bild, che è un altro quotidiano tedesco, che dà Schulz già quasi in parità rispetto alla cancelliera Angela Merkel. Era l'ultima segnalazione per oggi, ma in realtà, se la voce regge, ci sentiamo tra un'oretta per la rassegna stampa italiana. Ancora comunque un buon sabato a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.